659. Budino di farina di riso. Questo dolce, nella sua semplicità, è, a mio parere, di un sapore assai delicato e, benché cognito forse ad ognuno, non dispiacerà di sentirne stabilire le dosi nelle seguenti proporzioni, che io credo non abbisognino di essere né aumentate né diminuite. Latte, litri 1, farina di riso, grammi 200, zucchero, grammi 120, burro, grammi 20, uova numero 6, una presa di sale, odore di vaniglia. Sciogliete prima la farina con la quarta parte del latte ghiaccio, aggiungetene un poco del caldo quando è a bollore e versatela nel resto del latte quando bolle. Così impedirete che si formino bozzoli. Quando è cotta, aggiungete lo zucchero, il burro e il sale. Ritiratela dal fuoco e aspettate che sia tiepida per mescolarvi entro le uova e l'odore. Cuocete questo budino come l'antecedente. La composizione di questo dolce, il quale probabilmente non è di data molto antica, mi fa riflettere che le pietanze, pur anche, vanno soggette alla moda e come il gusto dei sensi varia seguendo il progresso e la civiltà. Ora si apprezza una cucina leggera, delicata e di bella apparenza e verrà forse un giorno che parecchi di questi piatti da me indicati per buoni saranno sostituiti da altri assai migliori. I vini sdolcinati di una volta hanno lasciato libero il passo a quelli generosi ed asciutti, e l'oca cotta in forno col ripieno d'aglio e di mele cotogne, giudicato piatto squisito nel 1300, ha ceduto il posto al tacchino ingrassato in casa, ripieno di tartufi e al cappone in galantina. In antico, nelle grandi solennità, si usava servire in tavola un pavone lesso arrosto con tutte le sue penne, spellato prima di cuocerlo e rivestito dopo, contornato di gelatine a figure colorate, con polveri minerali nocive alla salute, e per i condimenti odorosi si ricorreva al comino o al bucchero, che più avanti vi dirò cos'era. Le paste dolci si mantennero in Firenze di una semplicità e rozzezza primitiva fin verso la fine del secolo XVI, nel qual tempo arrivò una compagnia di lombardi che si diede a fare pasticci o felle sfogliate ed altre paste composte d'uova, burro, latte, zucchero o miele. Ma prima d'allora, nelle memorie antiche, sembra che siano ricordati soltanto i pasticci ripieni di carne d'asino che il Malatesta regalò agli amici nel tempo dell'assedio di Firenze, quando la carestia, specialmente di Companatico, era grande. Ora, tornando al bucchero, vi fu un tempo che, come ora la Francia, era la Spagna che dava il tono alle mode. E però, ad imitazione del gusto suo, al declinare del secolo XVII e al principio del XVIII, vennero in gran voga i profumi e le essenze odorose. Fra gli odori il bucchero infanatichiva e tanto se ne estese l'uso che perfino gli speziali e i credenzieri, come si farebbe oggi della vaniglia, lo cacciavano nelle pasticche e nelle vivande. Donde si estraeva questo famoso odore e di che sapeva? Stupite in udirlo e giudicate della stravaganza dei gusti e degli uomini. Era polvere di cocci rotti e il suo profumo rassomigliava a quello che la pioggia d'estate fa esalare dal terreno riarso dal sole. Odor di terra, infine, che tramandavano certi vasi detti buccheri, sottili e fragili senza vernice, dai quali forse ha preso nome il color rosso cupo, ma i più apprezzati erano di un nero lucente, Codesti vasi furono portati in Europa dall'America meridionale, la prima volta dai portoghesi, e servivano per bervi entro o per farvi bollir profumi e acque odorose. Poi se ne utilizzavano i frantumi nel modo descritto. Nell'Odissea d'Omero, traduzione di Ippolito Pindemonte, Antino dice: «Nobili proci, sentite un pensier mio. Di quei ventrigli di capre che di sangue grasso empiuti sul fuoco stan per la futura cena, scelga qual più vorrà chi vince, e quindi d'ogni nostro convito a parte sia». Nel tomo sesto dell'Osservatore fiorentino si trova la descrizione di una cena la quale, per la sua singolarità, merita di riferirne alcuni passi. Tra i piatti di maggior solennità si contava ancora il pavone cotto all'esso con le penne e la gelatina formata e colorita a figure. Un certo senese, trattando a cena un cortigiano di Pio II, alla metà del 1400 all'incirca, per nome Goro, fu sì mal consigliato in preparar questi due piatti che si fece dar la baia per tutta Siena, tanto più che non avendo potuto trovar pavoni, sostituì oche selvatiche, levato loro i piedi ed il becco. Venuti in tavola i pavoni senza becco e ordinato uno che tagliasse, il quale, non essendo più pratico a simile uffizio, gran pezzo si affaticò a pelare e non poté farsi destro che non empisse la sala e tutta la tavola di penne e gli occhi e la bocca, il naso e gli orecchi a Messer Goro e a tutti. Levata poi questa maledizione di tavola, vennero molti arrosti pure con assai comino, non pertanto tutto si sarebbe perdonato, ma il padrone della casa, co' suoi consiglieri, per onorare più costoro, aveva ordinato un piatto di gelatina a lor modo, e vollero farvi dentro, come si fa le volte a Firenze e altrove, l'arme del Papa e di Messer Goro con certe divise, e tolsero orpimento, biacca, cinabro, verderame ed altre pazzie, e fu posta innanzi a Messer Goro per festa e cosa nuova, e Messer Goro ne mangiò volentieri, e tutti i suoi compagni, per ristorare il gusto degli amari sapori del comino e delle strane vivande. E per poco mancò poi la notte che non distendessero le gambe alcun di loro, e massime Messer Goro ebbe assai travaglio di testa e di stomaco, e rigettò forse la piumata delle penne selvatiche. Dopo questa vivanda diabolica o pestifera, vennero assai confetti e fornissi la cena.